Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Passarono giorni e settimane dopo il mio ritorno a Ginevra, senza che mi sentissi il coraggio di riprendere il mio lavoro. Temevo la vendetta del demone deluso, ma ero incapace di vincere la mia ripugnanza per ciò che mi era stato imposto. Sapevo che mi sarebbe stato impossibile creare una femmina senza dedicare ancora parecchi mesi a uno studio profondo e ad analisi complicate. Avevo avuto notizie di alcune scoperte fatte da un filosofo inglese, la cui conoscenza era essenziale al mio successo, e pensavo qualche volta di chiedere a mio padre il permesso di recarmi in Inghilterra a questo scopo. Ma mi aggrappavo a ogni pretesto di ritardo e mi ritraevo davanti al primo passo di un'impresa la cui urgente necessità cominciava a sembrarmi meno assoluta. In effetti in me era avvenuto un cambiamento. La mia salute, che prima era andata declinando, era ora molto migliorata, e il mio umore migliorava in proporzione quando non lo ossessionava il ricordo della mia infelice promessa. Mio padre notò con piacere questo cambiamento e si studiò di trovare il mezzo migliore per vincere quel resto di melanconia che ogni tanto tornava a manifestarsi come un nuvolone nero che oscurasse la luce del sole nascente. In quei momenti mi rifugiavo nella più perfetta solitudine. Passavo intere giornate solo, sul lago, su una piccola barca, silenzioso e immobile, a guardare le nubi e ad ascoltare lo sciacquio delle onde. E di solito la dolcezza dell'aria e lo splendore del sole riuscivano a restituirmi un certo grado di serenità, talché quando tornavo rispondevo ai saluti dei miei cari con un sorriso più pronto e cuore più leggero. Fu appunto al ritorno da uno di questi vagabondaggi che mio padre, chiamatomi in disparte, mi disse: «Sono lieto di constatare, figliolo caro, che ti dedichi ancora ai tuoi passatempi di una volta che stai rientrando in te stesso. Pure c'è ancora qualcosa che ti tormenta e ti fa evitare la nostra compagnia. Per qualche tempo mi sono perduto in congetture circa la causa di tutto ciò, ma ieri un'idea mi ha colpito. Se essa ha qualche fondamento, ti scongiuro di confessarlo. Ogni reticenza su questo punto non solo sarebbe inutile, ma darebbe grande angoscia a noi tutti.» A questo esordio ebbi un tremito. Mio padre continuò: «Ti confesso, figlio mio, di avere sempre considerato il tuo matrimonio con tua cugina come il coronamento della felicità per la nostra famiglia e il conforto della mia vecchiaia. Vi volete bene fino dalla più tenera infanzia, avete studiato assieme e per gusti e per carattere sembravate perfettamente adatti l'uno all'altra. Ma cieca è l'esperienza dell'uomo, e può darsi che il mio progetto sia stato distrutto proprio da ciò che a mio giudizio meglio concorreva alla sua attuazione. Tu forse la consideri come una sorella e non provi desiderio alcuno che divenga tua moglie. O forse ti sei innamorato di un'altra e, dato che ti consideri legato da un vincolo d'onore a tua cugina, questo conflitto può essere all'origine della tua angoscia. Rassicurati, mio carissimo padre. Io amo mia cugina sinceramente e teneramente. Mai nessuna donna quanto Elizabeth ha destato in me affetto e ammirazione. Le mie speranze e i miei progetti per l'avvenire si ricollegano tutti all'idea della nostra unione. Questi tuoi sentimenti, mio caro Victor, mi danno la gioia più grande che io abbia mai provato da qualche tempo. Se tale è il tuo stato d'animo, certo saremo felici, anche se il recente accaduto può gettare su di noi un'ombra di tristezza. Ma intendo dissipare proprio questa tristezza che sembra avere preso così saldo possesso della tua anima. Dimmi, quindi, se hai qualche qualcosa in contrario a un'immediata celebrazione del matrimonio. Siamo stati sfortunati e gli avvenimenti ci hanno tolto quella tranquillità che si conviene ai miei anni e alla mia salute. Tu sei molto giovane, eppure non credo che, fornito come sei di una fortuna adeguata, un matrimonio precoce possa danneggiare i piani da te eventualmente formulati. Non pensare tuttavia che io voglia importi la felicità o che un ritardo da parte tua possa indispormi. Interpreta le mie parole nel migliore dei modi e rispondimi con fiducia e sincerità. Ascoltai in silenzio mio padre e per qualche istante non mi riuscii di formulare una risposta. Una moltitudine di pensieri si agitava nella mia mente e mi sforzai di arrivare a qualche conclusione, ahimè. L'idea di un'unione immediata con mia cugina mi riempiva di spavento e costernazione. Ero legato da una solenne promessa che non avevo ancora mantenuto e che non osavo infrangere. Se l'avessi fatto, quali sciagure avrebbero potuto rovesciarsi su di me e sulla mia affezionata famiglia? Potevo affrontare una festa nuziale con quel peso mortale legato al collo che mi piegava fino a terra. Dovevo adempiere al mio impegno e far sì che il mostro si allontanasse con la sua compagna prima di concedermi le gioie di un'unione da cui mi aspettavo pace. Ricordai anche la necessità che mi si imponeva di andare in Inghilterra o di intraprendere una lunga corrispondenza con gli studiosi di quel paese, la cui conoscenza e le cui scoperte mi erano indispensabili per il lavoro che stavo per iniziare. Il secondo sistema per ottenere le informazioni desiderate era laborioso e poco soddisfacente. Inoltre mi ripugnava enormemente l'idea di impegnarmi in quell'opera disgustosa nella casa di mio padre, a contatto giornaliero con coloro che amavo. Sapevo che potevano capitare mille pericolosi incidenti, il più piccolo dei quali avrebbe potuto svelare una storia da fare rabbrividire di orrore tutti quelli che mi conoscevano. Ero anche consapevole che avrei perso spesso l'autocontrollo e tutta la capacità di nascondere le sensazioni lancinanti che mi avrebbero posseduto durante lo svolgimento di quell'occupazione innaturale. Dovevo allontanarmi da coloro che amavo mentre sarei stato occupato. Una volta iniziato si sarebbe concluso in fretta e io sarei rientrato in famiglia acquietato e felice. Una volta mantenuta la mia promessa, il mostro se ne sarebbe andato per sempre, oppure, così immaginava la mia fervida fantasia, nel frattempo sarebbe potuto capitare un incidente che lo avrebbe annientato, mettendo fine per sempre alla mia schiavitù. Tali sentimenti mi dettarono la risposta che diedi a mio padre. Espressi il desiderio di visitare l'Inghilterra, ma tenendo celate le vere ragioni della mia richiesta, nascosi i miei desideri in modo da non suscitare sospetti, e sostenni con tale calore la mia richiesta che mio padre si lasciò facilmente indurre ad accontentarmi. Dopo un periodo così lungo di profonda malinconia che, per intensità ed effetti, somigliava alla pazzia, fu felice di vedere che ero in grado di trarre piacere dall'idea di un viaggio, e sperava che un cambiamento di ambiente e di distrazione mi avrebbe completamente restituito a me stesso, prima del mio ritorno. La durata della mia assenza fu lasciata alla mia scelta. Qualche mese, al più un anno, fu il periodo che considerammo. Mio padre aveva preso una precauzione gentile e paterna per assicurarsi che io avessi un compagno di viaggio. Senza comunicarmelo e d'accordo con Elizabeth, aveva preso accordi perché Clerval mi raggiunse a Strasburgo. Questo interferiva con la solitudine di cui avevo bisogno per la prosecuzione del mio compito. Tuttavia, all'inizio del viaggio, la presenza del mio amico non mi sarebbe stata certo di impedimento, e mi rallegrai sinceramente che in tal modo mi sarei risparmiato ore di riflessione solitarie ed esasperanti. Anzi, Harry si sarebbe addirittura potuto frapporre tra me e l'intrusione del mio nemico. Se fossi stato solo, di quando in quando avrebbe potuto impormi la sua presenza aborrita per ricordarmi il mio compito o per osservarne i progressi. Partivo quindi per l'Inghilterra, ed era inteso che la mia unione con Elizabeth sarebbe avvenuta immediatamente al mio ritorno. L'età di mio padre lo rendeva estremamente avverso a un rinvio. Quanto a me, una sola ricompensa mi ripromettevo di guadagnare dalla mia odiosa fatica. Un'unica consolazione per le mie sofferenze senza pari, la prospettiva del giorno in cui, affrancato dalla mia miserabile schiavitù, avrei fatto mia Elizabeth e unito a lei avrei potuto scordare il passato. Mi dedicai ai preparativi, ma mi assillava un pensiero che mi riempiva di timore e di agitazione. Durante la mia assenza avrei lasciato i miei cari inconsapevoli dell'esistenza del loro nemico ed esposti agli attacchi che, esasperato dalla mia partenza, avrebbe potuto sferrare. Ma aveva promesso di seguirmi dovunque andassi. Non mi avrebbe accompagnato dunque in Inghilterra. Quest'idea spaventosa in se stessa mi tranquillizzava in quanto presupponeva la salvezza dei miei cari. Mi straziava invece la supposizione che potesse accadere il contrario. Ma durante tutto il tempo in cui ero rimasto schiavo della mia creatura, mi ero lasciato governare dall'impulso del momento, e ora le mie sensazioni mi suggerivano con forza che il demone mi avrebbe seguito, liberando la mia famiglia dal pericolo delle sue macchinazioni. Era la fine di settembre quando partii. Il viaggio era stato una mia idea, e quindi Elizabeth l'aveva accettato, ma era molto inquieta all'idea che lontano da lei potessi soffrire attacchi di infelicità e dolore. Era stata questa sua preoccupazione a procurarmi Clerval come compagno di viaggio. E tuttavia, un uomo è cieco davanti a mille piccoli dettagli che suscitano invece le attente cure di una donna. Avrebbe voluto raccomandarmi di tornare presto, ma mille emozioni contrastanti la resero muta. E il suo addio fu silenzioso e bagnato di lacrime. Mi lasciai cadere nella carrozza che avrebbe dovuto condurmi lontano senza quasi sapere dove andassi e senza curarmi di quello che accadeva intorno a me. Mi ricordai solo, anche se il pensiero mi riempiva di angoscia, di ordinare che i miei strumenti chimici fossero imballati e viaggiassero con me. In preda alle più cupe fantasticherie, passai fra paesaggi splendidi e maestosi, ma i miei occhi fissi non vedevano nulla. Potevo pensare solo allo scopo del mio viaggio e al lavoro che mi avrebbe occupato per tutta la sua durata. Dopo alcuni giorni, trascorsi in assoluta apatia e durante i quali percorsi molti chilometri, arrivai a Strasburgo, dove attesi 2 giorni Clerval. Arrivò. Ahimè. Quanto era grande il contrasto fra noi. Si entusiasmava davanti a ogni nuovo panorama, era felice quando osservava il sole al tramonto e ancor più quando lo vedeva sorgere per dare inizio a un nuovo giorno. Mi indicava i colori mutevoli del paesaggio e del cielo. «Ecco che cosa significa vivere!» esclamava. «Ora godo di essere al mondo, ma tu, mio caro Frankenstein, perché sei così preoccupato e depresso?» In verità, ero preda di cupi pensieri. E non avevo occhi per il tramonto della stella della sera o per l'alba dorata che si rifletteva nel Reno. E voi, amico mio, vi divertireste molto di più a leggere il diario di Clerval, il quale osservava il panorama con occhio emozionato e gioioso, che ad ascoltare le mie riflessioni. Io ero un povero sciagurato, perseguitato da una maledizione che mi impediva ogni accesso al piacere. Avevamo deciso di discendere il Reno in battello da Strasburgo a Rotterdam e di imbarcarci là, alla volta di Londra. Durante questo viaggio passammo accanto a molte isole verdeggianti e scorremmo molte splendide città. Ci fermammo un giorno a Mannheim e il 5° giorno dopo la partenza da Strasburgo arrivammo a Magonza. Oltre questa città il corso del Reno si fa più pittoresco. Il fiume scorre rapido e serpeggia fra colline non alte ma ripide e di forma bellissima. Vedemmo molti castelli in rovina drizzarsi sull'orlo di precipizi, circondati da boschi neri e inaccessibili. Questa parte del Reno offre uno spettacolo singolarmente vario. In un punto si vedono colline aspre e castelli in rovina a picco su tremendi precipizi, sotto i quali il fiume scorre cupo. E poi all'improvviso, doppiato un promontorio, il paesaggio è dominato da fertili vigne, da declivi verdeggianti, dalle curve sinuose del fiume, da popolose città. Viaggiamo in periodo di vendemmia, e navigando sul fiume udivamo i canti dei contadini. Anch'io me ne sentivo rallegrato, per quanto depresso e in preda a cupi pensieri. Mi sdraiavo sul fondo del battello e, mentre fissavo gli occhi al cielo azzurro e senza nuvole, mi sembrava di sorbire una tranquillità che mi era da tanto tempo estranea. Se questi erano i miei sentimenti, chi può descrivere quelli di Henri? Si sentiva trasportato nel paese delle fate e godeva di una felicità quale raramente all'uomo è dato di gustare. «Ho visto», diceva, «le più belle parti del mio paese. Ho visitato i laghi di Lucerna e di Uri, dove le montagne coperte di neve discendono quasi a picco sull'acqua, gettando ombre nere e impenetrabili che potrebbero creare un'atmosfera cupa e triste non fosse per le isole verdeggianti che danno sollievo all'occhio con il loro aspetto gaio. Ho visto questo lago, agitato dalla tempesta, quando il vento suscita mulinelli d'acqua paragonabili ai vortici dell'oceano, e ho visto le onde spazzare con furia la base della montagna, là dove un prete e la sua amante furono travolti da una valanga e dove, secondo la leggenda, le loro voci si odono ancora fra le pause della brezza notturna. Ho visto le montagne di La Vallée e il Pays de Vaux, ma questo paese, Victor, supera tutte quelle meraviglie. Le montagne della Svizzera sono più maestose e strane, ma sulle rive di questo fiume divino c'è un incanto di cui io non ho mai provato l'eguale. Guarda quel castello che domina quel precipizio, guarda quell'isola quasi nascosta fra le foglie di quegli alberi meravigliosi, e quel gruppo di contadini che avanza fra le viti, e quel villaggio laggiù, seminascosto nei recessi della montagna. Certo, lo spirito che abita e protegge questi luoghi ha un'anima amica all'uomo più di quelli che costruiscono i ghiacciai o si ritirano sui picchi inaccessibili delle montagne del nostro paese. Clerval, amico diletto, anche ora provo piacere a ricordare le tue memorie e indugiare nella tua lode, così meritata. Era una creatura formata nella poesia della natura. La sua immaginazione, sfrenata ed entusiasta, era moderata dalla sensibilità del suo cuore. La sua anima traboccava di ardenti affetti, e la sua amicizia era di quella natura devota e meravigliosa che chi conosce il mondo ci insegna che può esistere solo nell'immaginazione. Ma neppure le simpatie umane erano sufficienti a soddisfare la sua mente insaziabile. Egli amava con ardore gli scenari della natura che in altri destano solo ammirazione. La scrosciante cascata era per me come un'ossessione, e l'alta rupe, il monte e il bosco cupo ed intricato, i loro colori e le loro forme erano allora per me cose bramate, un sentimento ed un amore che non abbisognavano d'un più recondito fascino trovato nel pensiero o d'altro interesse che non fosse quello offerto dalla vista. E dov'è egli ora? È perduto per sempre quest'essere così amabile e buono, questa mente così ricca di idee, di immaginazione, di fantasia, che formavano tutto un mondo che rispecchiava la vitalità del suo creatore. Questa mente è scomparsa, esiste ora solo nel mio ricordo. No, non è così. Il tuo corpo, plasmato da mano divina e risplendente di bellezza, si è sfatto, ma il tuo spirito visita ancora e consola il tuo infelice amico. Scusatemi, questa effusione di cordoglio, le mie Inefficaci parole sono un ben misero tributo al valore impareggiabile di Harry, ma placano l'angoscia che mi dà il suo ricordo. Continuerò ora il mio racconto. Superata Colonia, traversammo le pianure dell'Olanda, ma decidemmo di continuare il nostro viaggio in diligenza perché il vento era contrario e la corrente del fiume troppo debole per esserci di qualche aiuto. Il nostro viaggio perseguì l'interesse derivante dalla bellezza del paesaggio, ma arrivammo in pochi giorni a Rotterdam, da dove proseguimmo per mare, alla volta dell'Inghilterra. Era una chiara mattina di fine dicembre, quando vidi per la prima volta le bianche scogliere della Gran Bretagna. Le rive del Tamigi mi offrirono uno spettacolo nuovo. Erano piatte, ma fertili, e quasi ogni città richiamava alla memoria qualche episodio storico. Vedemmo Tilbury Fort, e ricordammo l'armada spagnola. Vedemmo Gravesend, Woolwich e Greenwich, luoghi di cui avevo sentito parlare anche nel mio paese. Vedemmo alla fine le innumerevoli guglie di Londra, la cupola di San Paolo che troneggia al di sopra di esse, e la torre, così famosa nella storia d'Inghilterra.